Rala, a gata rala, ela não para. Te piace quando ti mostro la me malvada. Não quero nada, só uma noite de loucura alla sudamericana. Guai, oggi che look nice, ho cancellato i file, dovevo far più foto di quando non ti ho avuto, per ricordarmi che la vita è bella e che non mi aiuta il tuo aiuto. Io levati di dosso, mio Dio, non vedo altra via, mi tolgo un peso ma senza zampi. Mi hai dato gli anelli, poi dopo sui nervi, in love di nuovo solo con davanti gli specchi. Fai come vuoi, non sarà un aereo a separarmi da un bad boy. Ma se non va più tra noi, ho scriata gata, van cuidado, se tu dai, dai, dai, dai, dai. Irraggiungibile, non rispondo al cielo. Torna risata, prove si hollow funk. Ti perdi nelle mie hips, come DMT. Torna risata, prove si hollow funk. O que eu queria dizer? Fai come vuoi, non sarà un aereo a separarmi da un bad boy. Ma se non va più tra noi, ho scriata gata, van cuidado, se tu dai, dai, dai, dai. Tô na rijata pra ver se rola um funk, funk. Tô na rijata pra ver se rola um funk, funk, funk, funk. Tô na rijata pra ver se rola um funk, funk. Tô na rijata pra ver se rola um funk.